Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve, benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, il programma animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, l'evoluzione del mondo, concentrando l'attenzione sugli animali non umani. È la puntata numero 586 e parleremo di pandemie e di politica, di orsi e di insetti, di piccoli scandali nostrani. En me voyant, je sais ce que vous vous dites, que je ne suis pas vraiment ce dont j'ai l'air. Vous me jugez, comment dire, insolite. Alors regardez-moi en long, en large et en travers. Nei giorni scorsi l'Agenzia Internazionale dell'Energia ha informato che il 2021 è destinato a essere un anno terribile per la quantità di inquinamento prodotto dalle fonti di energia. L'agenzia prevede un aumento delle emissioni di anidride carbonica di 1,5 miliardi di tonnellate, una quantità che annullerà i benefici avuti nel 2020 grazie al rallentamento delle attività umane causa pandemia. Per il pianeta quello dell'anno scorso è stato un respiro meno faticoso del solito, ma brevissimo. Il direttore dell'agenzia, Fatih Birol, non ha cercato di minimizzare i dati, anzi ha affermato che si tratta di un terribile avvertimento. La ripresa economica, ha spiegato, è tutt'altro che sostenibile per il nostro clima. A meno che i governi non si muovano rapidamente per ridurre le emissioni, dovremo affrontare una situazione ancora peggiore nel 2022. Je revois la ville en fête et en délire, suffocant sur le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires, qui éclatent, rebondissent autour de moi. Perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne et se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Quel che dovrebbero fare i governi lo spiega bene J.R. Diamond, antropologo famoso nel mondo per il suo libro Armi, acciaio e malattie. Diamond ha studiato le parabole di intere civiltà, mettendo a fuoco la vena autodistruttiva che a volte le ha accompagnate. La nostra civiltà, quella degli artefici dell'antropocene, sta correndo, come sappiamo, verso il disastro. E anche Diamond, in un'intervista al quotidiano La Repubblica, sostiene che occorre agire e occorre farlo in fretta. Abbiamo 30 anni per evitare danni irreparabili, ma dobbiamo consumare meno, sintetizza Repubblica nel titolo. Diamond, fra le altre cose, consiglia di non fare troppo affidamento sulle proprietà salvifiche delle tecnologie. Tutti gli strumenti della tecnologia sono sbagliati, dice, se ci si illude di risolvere così la crisi climatica. L'unica soluzione è consumare meno energia, specie se viene da combustibili fossili. Ma consumare meno energia e meno merci nel mondo attuale è un'eresia che non viene accettata, nonostante gli effetti ormai noti del modello di sviluppo basato sulla crescita dei consumi. Crisi climatica, pandemie, un mondo messo in ginocchio da un virus. Oh, il me prada, se va, il me parle, tu va, je vois la vie en rose. I governi dunque dovrebbero agire nella direzione di una riduzione delle attività nocive, quindi dell'estrazione di risorse dalla terra, ma stanno pensando a tutt'altro. Nonostante il vertice per il clima convocato nei giorni scorsi dal presidente statunitense Joe Biden, i governi pensano a rilanciare l'economia con il retropensiero di chiudere al più presto la parentesi della pandemia e tornare al mondo di prima. Ma il mondo di prima, come ben sappiamo, è proprio quello che ha prodotto la pandemia, per cui anche l'eventuale fine dell'emergenza Covid, tutt'altro che prossima, sarebbe solo l'avvio di una fase di incertezza, in attesa di dover affrontare nuovi virus, nuovi rischi pandemici, visto che niente si sta facendo per agire sulle cause del salto di specie dei virus dagli animali selvatici agli umani. A proposito di quel che sta avvenendo sul pianeta, della sua estrema sofferenza, da qualche puntata stiamo proponendo un vademecum, una sorta di guida per orientarsi fra nozioni che sono spesso semplici solo in apparenza e che altrettanto spesso sono usate a sproposito, con fini maliziosi. Viviamo un periodo nel quale tutti si dicono ambientalisti e parlano di sostenibilità, in testa a ministri e capi di governo, ma nessuno o quasi intende davvero impegnarsi per il radicale cambio di rotta di cui avremmo bisogno. Francesco Panier, per la sua rubrica Lessico dell'Antropocene, ci parla oggi di deforestazione. C'est à moi pour de bon, c'est bon, et si nous nous aimons, cherchez pas la raison, c'est parce que c'est si bon. C'est parce que c'est si bon, si bon, oh, si bon, oh, si, si, si, si bon. Oltre 12 milioni di ettari di alberi ai tropici sono stati tagliati nel solo 2020. Un terzo erano foreste primarie, fino a quel momento indisturbate. La deforestazione è uno dei fenomeni più distruttivi per gli ecosistemi terrestri, un motore del cambiamento climatico e un acceleratore della circolazione di patogeni, perché cancella quelle zone cuscinetto tra la vita selvatica e le società umane e aumenta la probabilità di trasmissione dei virus tramite il salto di specie. Nonostante i lockdown in tutto il mondo e la recessione economica dovuta al Covid-19, nel 2020 abbiamo visto una crescita della deforestazione tropicale del 12% rispetto al 2019. Secondo il World Resource Institute, le maggiori difficoltà negli spostamenti hanno rallentato i funzionari delle forze dell'ordine, lasciando in campo libero ai tagliaboschi. Il paese dove la deforestazione è cresciuta più fortemente è il Brasile. L'Amazzonia brasiliana ha registrato un aumento del 15% della perdita di foreste primarie nel 2020 rispetto al 2019. Le politiche e la retorica dell'amministrazione Bolsonaro hanno paralizzato le agenzie ambientali e le forze dell'ordine, incoraggiato l'accaparramento di terre e spalancato alle imprese i territori abitati dalle comunità indigene. Ma la distruzione ambientale non è solo colpa di autocrati come il presidente brasiliano. È la risposta a una domanda precisa, quella di materie prime come carne, soia e biocarburanti che gran parte dell'Occidente soddisfa a spese dell'America Latina, dell'Africa e del sud-est asiatico. Gli incendi che hanno sconvolto la regione amazzonica la scorsa estate, ad esempio, sono figli di una crescente tendenza a radere al suolo la foresta per trasformarla in pascoli destinati a produrre carne bovina a basso costo per il mercato europeo. L'Italia è il primo paese del vecchio continente per importazione di carne dal Brasile. La mano che aziona le motoseghe in Amazzonia è quindi anche quella dei paesi occidentali, che per non farsi mancare la bistecca, sconvolgono ecosistemi secolari e fondamentali alla regolazione del clima di interi continenti. Le ultime ricerche raccontano che l'Amazzonia potrebbe raggiungere il punto di non ritorno entro il 2030. Significa che il carbonio sottratto dai suoi alberi all'atmosfera diventerà inferiore a quello che viene rilasciato, trasformando questo immenso bioma da parte della soluzione dal riscaldamento globale a parte del problema. Per scongiurare questo scenario da incubo c'è soltanto un modo: scoraggiare l'allevamento e il commercio di carne. Può sembrare un tabù, ma è precisamente ciò di cui noi e gli altri animali abbiamo bisogno. Abbiamo parlato spesso nel nostro programma delle trasformazioni in corso nell'industria del cibo, sempre ancorata al modello carnista, incentrato sui grandi allevamenti e gli altrettanto grandi mattatoi sparsi per il mondo, ma anche aperta alla ricerca di nuove soluzioni, meno nocive per la vita del pianeta e, dal punto di vista delle aziende, comunque profittevoli. La notizia di oggi è che si profilano nuove opportunità dall'allevamento degli insetti. Si tratta in questo caso di start-up promosse da Confagricoltura. Due in particolare sono indicate come esemplari da questa associazione. La prima prevede la possibilità di allevare larve di mosche per produrre crocchette per cani ad alto contenuto proteico, ottenendo, sembra, un effetto stabilizzatore della flora batterica intestinale in grado di prevenire infezioni e malattie. La seconda startup sta lavorando all'utilizzo di insetti per convertire resti di frutta e verdura in farina proteica e olio da impiegare nei mangimi. Mangimi chiaramente destinati ad animali di allevamento, in un progetto che sembra dare per scontato che nulla debba cambiare nell'abitudine alimentare delle persone. Innovare per non cambiare. Pare essere questo il motto oggi più in voga, come segnalava del resto Diamond parlando delle soluzioni tecnologiche che dovrebbero rallentare l'effetto serra senza nulla cambiare nei consumi di energia. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. C'était l'été, évidemment, et j'ai compté en le voyant mes nuits d'automne. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux, ça l'a fait rire. Quand il s'est approché de moi, j'aurais donné n'importe quoi. D'avoir 18 ans, c'était le plus bel argument de sa victoire. Brexit o non Brexit, le dispute fra Gran Bretagna e Francia continuano ad animare le relazioni interne al continente europeo. Stavolta la contesa è sul foie gras, il fegato d'oca, crudele prelibatezza della cucina d'Oltralpe. Il governo britannico ha ipotizzato il divieto di importazione di questo prodotto e tanto è bastato per scatenare reazioni sdegnate in Francia. L'associazione francese dei produttori di foie gras si è detta addirittura scioccata e indignata per voce di Marie-Pierre P., direttrice del comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras, che rappresenta circa 3.500 produttori e che ha invitato i parlamentari d'oltremanica per verificare se l'alimentazione forzata di âne tre oche sia davvero crudele, come affermano, dice P., gli attivisti per i diritti degli animali. Non ci sarebbe dunque niente di crudele, secondo questa associazione, nell'alimentazione forzata delle oche, che pure è finalizzata a gonfiarne a dismisura il fegato. J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement, rue Sarrazate. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de Canaries et une chatte. Pour laisser maman reposer, très souvent je fais le marché et la cuisine. Je range, je lave, j'essuie. À l'occasion, je pique aussi à la machine. Le travail ne me fait pas peur. Je suis un peu décorateur. Dalle tristi specialità francesi ad altrettanto tristi specialità italiane. Specialità doppie stavolta. Non solo un pranzo a base di uccellini protetti e quindi non cacciabili, messi allo spiedo in barba a tutte le normative, ma anche un pranzo collettivo, presenti 23 persone, in barba stavolta alle norme che cercano di contenere la diffusione della pandemia. È successo nella sede della comunità montana della Valtrompia, nel Bresciano, quindi un luogo istituzionale, e solo l'intervento dei carabinieri ha fermato il banchetto. Non sorprende che la notizia abbia fatto il giro del mondo, ripresa da varie testate internazionali. Notevole la spiegazione fornita dal direttore della comunità montana. Non si trattava di un pranzo, ha detto, bensì di un breve seminario formativo organizzato al fine di consolidare lo spirito di gruppo, al termine del quale era prevista la distribuzione di un rinfresco, da consumarsi anche successivamente, ciascuno nei propri uffici. Nel menù di un pranzo in Italia, uccellini canori protetti, ha titolato un po' stupito il sito The New York Times. Je t'aime. In una recente puntata il professor Luigi Lombardi Vallauri ha commentato per noi la proposta di modifica costituzionale in discussione al Senato che potrebbe introdurre nella nostra carta fondamentale la tutela degli animali. Potrebbe, perché la battaglia politica è appena cominciata e si stanno definendo le reali posizioni dei vari partiti. Spicca per il suo anti-animalismo la Lega, che ha presentato la bellezza di 246.000 emendamenti, con il chiaro intento di rallentare, se possibile bloccare, la discussione, in modo che non si arrivi mai a una conclusione. La posizione leghista ha suscitato forti reazioni, anche nella destra, favorevole in buona parte al provvedimento. La Lega ha spiegato di essere pronta a ritirare gli emendamenti, a patto che il testo sia riscritto. I senatori leghisti vorrebbero differenziare con ragionevolezza le tipologie di animali, distinguendo fra quelli d'affezione, i selvatici, d'allevamento, quelli pericolosi. E questo per evitare in futuro paradossi nella sua applicazione, così hanno detto. Così facendo però si finirebbe per ottenere il risultato contrario. Invece di affermare il principio della tutela degli animali, sottoposto in questa fase storica d'eccezione, si direbbe che alcuni animali non ne sono degni, nemmeno in linea di principio. Vedremo che sviluppo prenderà questa difficile discussione. L'automne emporte les rêves et les fables. Un an d'amour, c'est irréparable. L'automne emporte les rêves et les fables. C'est irréparable. Continua in Trentino il corpo a corpo fra le autorità provinciali e gli orsi, con le prime impegnate a contenere e circoscrivere l'esistenza dei secondi, a dispetto del progetto europeo Life Ursus, che ha portato alla reintroduzione di questi animali nelle Alpi italiane. È diventata in buona parte una questione politico-propagandistica che mette al centro la consueta questione della sicurezza, stavolta declinata sugli orsi, anziché su altre figure sociali. La notizia più recente è positiva ed è l'annullamento definitivo da parte del TAR di Trento dell'ordinanza della provincia autonoma che disponeva la cattura dell'orsa JJ4. Il TAR ritiene che non esista alcuna urgenza che giustifichi la cattura dell'orsa. L'orsa a giugno scorso si era scontrata con due cacciatori usciti dal sentiero che l'avevano sorpresa in compagnia dei suoi cuccioli ed era stata in un primo momento condannata a morte dal presidente della provincia Maurizio Fugatti. Il ricorso della LAV e la sospensione dell'ordinanza da parte del TAR bloccò il progetto provinciale, ma Fugatti firmò allora un'ordinanza di cattura, che ora è stata annullata. La beauté n'a rien, je sens la chaleur de ton amour. Toi qui en éclaire, je voudrais imaginer, rêver que tu me prends, que tu me prends, que tu me prends vraiment. Gabriele Palloni, il nostro tosco vegan chef, ha dedicato proprio all'orsa JJ4 la sua ricetta della settimana. Ricordiamo che Gabriele è autore del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Ogni tanto una bella notizia, e in quanto tale va celebrata. Quindi, per la libertà dell'orsa JJ4, una ricetta trentina, terra nella quale potrà continuare a vivere. Gli ingredienti per 4 persone per gli asparagi fritti alla trentina sono 1 kg di asparagi, un limone, 40 ml di latte di soia al naturale, 40 ml di olio di semi di girasole, 20 ml di olio extravergine di oliva, 150 g di farina di ceci, 50 g di farina tipo 0, 200 g di pan grattato, 15 g di amido di mais, dell'erba cipollina, un pizzico di sale Kalanamak, olio per friggere e del sale e pepe. Lavate delicatamente gli asparagi eliminando la parte finale più dura. In un tegame piuttosto largo fate bollire dell'acqua con il limone tagliato a metà. Immergete gli asparagi e fate cuocere per 20 minuti, facendo attenzione a non rompere le punte. Scolateli delicatamente conservando l'acqua di cottura e lasciate raffreddare. Nel frattempo preparate una pastella con la farina di ceci, un pizzico di sale e un cucchiaio di farina di frumento. Amalgamate con acqua fino ad ottenere una crema liscia. Passate gli asparagi nella rimanente farina e successivamente nella pastella. Fate scolare quella in eccesso e passate nel pan grattato facendo una leggera pressione affinché la panatura si attacchi bene. Friggete in immersione in olio ben caldo, scolate e asciugate su carta per frittura. A parte, stemperate l'amido di mais con 250 ml del brodo di cottura degli asparagi. Mescolate bene e mettete sul fuoco fino a quando non inizierà ad addensare. Con un mixer emulsionate il latte di soia con l'olio di semi di girasole e l'olio extravergine fino ad ottenere una crema liscia che aggiungerete alla salsa. Unite anche l'erba cipollina tagliata finemente e un pizzico di sale Kalanamak. Disponete gli asparagi su di un vassoio e coprite con la salsa. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. Seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbon et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Une parole encore. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Con la ricetta di Gabriele Palloni si conclude questa puntata di Restiamo Animali. Vi saluta l'intera redazione, composta da Camilla Lattanzi, Francesca De Matteis, Roberta Marino, Zenone Sovilla, Anna Granata, Gianluca Masala, Gianni Ferrarotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.